Italia in controluce. E il pomeriggio di Radio 24 vi parla Daniele Biacchesi, questa Italia in controluce. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per Scuola in controluce. Scuola in controluce. Ma se anche per miracolo le tasse scendessero del 90%, ci sarebbe comunque chi proverebbe a vederle, perché pensa di guadagnarsi così la patente di furbo. Lei, per esempio, preferirebbe dire di se stesso: io sono onesto o io sono furbo? Io preferirei che dicessero: sono onesto, ma come mi ripeteva sempre mio babbo, fatti furbo, fatti furbo. Un popolo di furbi gli italiani, e siccome gli italiani si costruiscono, si formano a scuola, è proprio qui, ha pensato la Regione Toscana, che bisogna cominciare a spiegare agli studenti l'importanza del pagare le tasse, non solo attraverso le tradizionali lezioni, ma anche con uno spettacolo teatrale dal titolo Evasi Fiscali, realizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza, spettacolo che ha girato più di 20 scuole superiori fra gennaio e febbraio. Sulla scena gli attori Carlo Monni e Andrea Bruno Savelli, che ne è anche autore e regista, e che ci racconta come ha deciso di spiegare un tema così delicato ai più giovani, partendo proprio da un esempio. Facciamo un esempio molto semplice, e che sarà capitato a molti di voi. Molti di voi hanno il motorino, a tutti sarà capitato di portarla a riparare dal meccanico, e alla maggior parte di noi è successo di sentirsi dire se vogliamo la ricevuta oppure no. Con la ricevuta c'è un prezzo, mettiamo 15 euro, senza ti chiedono 10 euro, a tutti viene istintivo di cercare di risparmiare quei 5 euro, ma quello che crediamo essere un risparmio in realtà non lo è. Perché? Perché questa storia che tutti cercano di evadere le tasse va avanti da 20-30 anni, lo Stato non riesce più a tappare le falle, anche se le abbiamo già detto che deve razionalizzare e eliminare tutti gli sprechi, però anche eliminando tutti gli sprechi, con tutta questa evasione non riesce più a stare dietro a tutto, e è costretto a eliminare i servizi. E quali sono i primi servizi che elimina? Sono sempre i soliti: la scuola, l'istruzione, l'università, la ricerca, cioè tutto quello che vi può garantire un futuro. Ecco che quello che può sembrare un risparmio immediato, in realtà è un'enorme perdita nel futuro di ciascuno di noi. Quindi ho cercato di mettermi dalla loro parte per capire come poi fargli capire che quello che sembra un risparmio nell'immediato è una grave perdita nel loro futuro. Ecco, come portate in scena questo tema? Lo portiamo in una maniera un pochino diversa, cioè cerchiamo, li avviciniamo grazie anche a questo grande attore comico toscano che è Carlo Monni, che entra vestito da evaso, quindi è già molto molto divertente, finge di rifugiarsi inseguito da chissà chi in questa scuola, prima del mio intervento, che invece sono vestito da tenente della Guardia di Finanza. Quando arriva si nasconde tra i ragazzi, già li ha fatti ridere molto, e continua questa cosa, questa lezione da parte mia, inframmezzata dalle battute veramente divertenti di Carlo. Quindi riusciamo a far passare il messaggio che la pressione fiscale è un danno che facciamo a tutti quanti noi continuamente, ma facendoli ridere. Insomma, è particolarmente importante spiegare proprio ai più giovani quanto sia grave evadere le tasse. Ne è convinto l'assessore al bilancio della Regione Toscana, Riccardo Nencini. Perché chi non paga le tasse depriva le casse dello Stato di possibilità di finanziare servizi e lavoro, e quindi toglie futuro soprattutto alle ragazze e ai ragazzi. Bisogna renderli edotti dicendo che la furbizia ha le gambe corte, il senso civico alle gambe lunghe. Come state cercando di far arrivare questo messaggio così importante alle nuove generazioni? In un modo atipico, attraverso uno spettacolo teatrale che ci costa niente. Alla fine lasciamo un opuscolo scritto alla maniera del teatro, snello, comprensibile, che entri nelle famiglie e che spieghi esattamente questo principio: non farti rubare il futuro, collabora, abbi senso civico. Nella speranza che questo messaggio dalle scuole arrivi anche in famiglia, a casa. Sì, e soprattutto sia un modo per educare diversamente i nostri figli. Se da una parte anche le istituzioni fanno la loro parte, con chi oggi ha tra i 14 e i 18 anni fanno soltanto il loro dovere. Parlare a scuola di evasione fiscale, una scuola che vive, no? Con i soldi dello Stato, e quindi anche la scuola, insomma, si deve reggere con i soldi dello Stato, sperando che tutti però diano il loro contributo. Anche questo è un messaggio forse da far passare. Sì, noi abbiamo nella nostra Costituzione la scuola come valore in assoluto e la scuola pubblica come principio fondamentale. La scuola pubblica deve essere finanziata dallo Stato, spesso invece abbiamo classi e scuole dove ti devi portare la carta per fare le fotocopie o la carta igienica addirittura da casa. È un modo per far vedere, anche nel nostro caso teatrale, con evasi fiscali, le disfunzioni che esistono quando il bilancio dello Stato non può far fronte, anche per questo motivo, a un servizio primario, l'educazione scolastica. Esatto, quindi si parla sempre di tagli alla scuola, però insomma se tutti facessero la loro parte e dessero il loro contributo, forse anche la scuola sarebbe un po' più ricca. Assolutamente sì. Una scuola che funzionerebbe meglio dunque se tutti pagassero le tasse. Paola Salvadori insegna economia aziendale all'Istituto Professionale per i Servizi di Scandicci in provincia di Firenze, dove si è tenuto lo spettacolo Evasi Fiscali proprio qualche giorno fa. I ragazzi devono capire che il luogo comune, che chi evade è furbo, non regge, non paga e nasconde in verità un grosso furto, un vero e proprio furto che viene fatto allo Stato e che viene fatto a loro, alla loro vita, alle loro persone e al loro futuro. Ecco, che sensazione hai? I ragazzi conoscono l'argomento, ne parlano in famiglia, oppure sì, sgranano gli occhi e non capiscono no, di che cosa stiamo parlando? Sono estremamente sensibili, infatti questo è stato un altro motivo che mi ha spinto a chiedere questo spettacolo, perché i ragazzi sono estremamente sensibili e in classe vogliono sempre saperne di più, vogliono sapere come funziona, vogliono sapere che cosa succede effettivamente quando vanno dal parrucchiere e il parrucchiere non gli fa la ricevuta fiscale o gliela fa più piccola, oppure quando l'idraulico a casa non fa lo stesso. Ma c'è qualcuno che dice, insomma, comunque sono troppe queste tasse, magari perché lo sentono certo, a casa. Certo, e quindi questo è il luogo comune, certo, c'è qualcuno che dice sì, però si paga, specialmente noi poi facendo il bilancio e facendo le imposte sul bilancio si arriva a vedere che anche per le società le imposte sono una fonte di pesantezza, no? Nel togliere il reddito della società, tant'è vero che io poi vi spiego che molte aziende usano quest'altro fenomeno che non è l'evasione ma è l'elusione fiscale per evitare di dover pagare le imposte sull'utile, sul reddito, però capiscono comunque che tutto questo meccanismo è un meccanismo che deve essere stroncato, speriamo di riuscire a farlo col tempo. Certo, perché ci vuole tempo. C'è qualche osservazione che i suoi ragazzi hanno fatto che lei ha trovato particolarmente arguta, intelligente in tal senso? Sì, l'osservazione che loro fanno è che notano, per esempio a livello di scontrini fiscali, loro notano che e si stupiscono davanti al fatto che per esempio se non ricevono uno scontrino per un gelato, allora vuol dire, e mi guardano con gli occhi sgranati, dicono se stessa, ma allora vuol dire che noi abbiamo pagato l'IVA e quell'IVA invece di essere andata allo Stato è andata in tasca al gelataio. E loro scoprono questo, insomma, e questa è una cosa che li colpisce profondamente. Ma che cos'è per loro, i destinatari dello spettacolo, i ragazzi delle scuole superiori, l'evasione fiscale? Gaia Sassano ha 19 anni e frequenta l'ultimo anno del professionale di Scandicci. Beh, sicuramente non è una cosa giusta ed è una cosa che a noi giovani soprattutto toglie molto e ci crea senz'altro disagio e sarebbe sicuramente da combattere, poi come non, purtroppo non spetta a noi deciderlo. Ti è piaciuta questa iniziativa della scuola? Insomma, ti ha chiarito un po' le idee forse che avevi magari un po' confuse sull'argomento? Ma per l'appunto io studio economia aziendale, quindi chiarire le idee fino a un certo punto perché è argomento purtroppo attuale. Comunque sì, è stata un'iniziativa molto bella e comunque come classe ci è piaciuta molto, essendo soprattutto una quinta, sarà probabilmente programma d'esame, quindi è una cosa, come ho detto, sfortunatamente molto attuale, quindi ne parliamo quotidianamente anche in classe. Ti è mai capitato, magari anche approfittando della tua giovane età, che qualcuno non ti facesse lo scontrino e tu in tal caso hai protestato? Onestamente no, più che altro perché cioè, è difficile magari anche farci caso così ora, se ci stai particolarmente attento, ma se no generalmente non ci fai così tanto caso, ormai siamo abituati probabilmente. Comunque non mi è mai capitato neanche che mi fermassero per chiedermelo. Ma tu lo chiedi lo scontrino? Quando non me lo fanno, no, difficilmente purtroppo. Neanche adesso che hai capito quanto è importante il coraggio di farlo? No, probabilmente ci farei senz'altro più caso, questo sì, però non so se avrei il coraggio di fare lo scontrino. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, questa come tutte le puntate è scaricabile in podcast. Torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24.